America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Ecco, avete sentito questa documentazione audio? In realtà è un video, ma l'audio parla da solo. Avete sentito questi due spari? E sono i colpi di pistola con cui un poliziotto uccide un prigioniero afroamericano che è già sdraiato per terra, immobilizzato dagli agenti, di fianco a un'auto in un parcheggio. Sembra una scena di un film. Purtroppo, però, a Baton Rouge, in Louisiana, nel profondo sud, Alton Sterling, questo è il nome della vittima, ha pagato con la vita. I due agenti in servizio, Blaine Salamoni e Howie Lake, in servizio da 4 anni, da 3 anni, avevano ricevuto una chiamata anonima che annunciava le minacce da parte di un uomo armato ai danni di alcune persone, quindi sono andati a capire cosa succedeva. In effetti quest'uomo aveva una pistola in tasca, però non l'ha mai tirata fuori, e dunque, beh, è sembrata quasi un'esecuzione a sangue freddo. Poi in queste situazioni prevale naturalmente la paura, e dunque un altro afroamericano ha perso la vita. Questo è un elemento di cronaca che si inserisce ovviamente in un dibattito sul tema che ormai è un dibattito annoso, perché procede ormai da qualche anno. Si sperava di non dover assistere più a scene di questo genere, eppure continuano. Ecco, questo episodio si è inserito in una giornata di cronaca che è stata densa di cronaca politica, dedicata soprattutto a Hillary Clinton, l'Emailgate, le reazioni di Trump e soprattutto le ricadute che potrà avere, ricadute negative naturalmente, Hillary Clinton dalla decisione dell'FBI. Da una parte si è salvata, come dicevo ieri, dall'altra però le parole dure che ha usato James Comey, il direttore dell'FBI, sono pesanti come dei macigni, e credo che non spariranno tanto presto. The laws are very explicit. Stupidity is not a reason that you're going to be innocent. And this is where they said that she was extremely careless and, frankly, I say, grossly incompetent. Ecco, Trump naturalmente ne approfitta, dice: la legge è molto chiara, la stupidità non può essere considerata una prova di innocenza. Dicono che sia stata estremamente imprudente, e si riferisce alla Clinton. Io aggiungo, è stata totalmente incompetente. Ecco, vi ho fatto ascoltare questo passaggio significativo perché Donald Trump ha capito, finalmente dal suo punto di vista, che era inutile continuare a attaccare il capo dell'FBI, come dire, dando l'impressione che facesse parte di un complotto, che era stato sottoposto a forti pressioni politiche per esprimere un giudizio a favore di Hillary Clinton. Perché Comey è supra partes, come gli ho detto ieri, tra l'altro un repubblicano lui stesso, e soprattutto Comey ha usato delle parole di condanna per il modus operandi della Clinton. E dunque, anche, devo dire, su suggerimento in qualche modo del New York Times, il New York Times è un giornale di sinistra, però ha subito annusato il giornale in 2 articoli diversi i problemi che potrebbero manifestarsi per Hillary da qui in avanti. Perché il problema qual è? È vero, come vi dicevo ieri, che la ex First Lady è salva, nel senso che la mancata incriminazione da parte dell'FBI le consente di restare in corsa per la Casa Bianca. L'alternativa, cioè l'incriminazione, l'avrebbe costretta quasi certamente ad abbandonare la corsa. Dunque, il risultato, sotto un certo punto di vista, è positivo per lei. Però i problemi ci sono, il danno c'è, e si tratta di vedere se sarà un tormentone che allungherà ombre scure sulla sua campagna elettorale, oppure se queste polemiche finiranno per sopirsi nel giro di alcune settimane. Ecco, secondo me la polemica continuerà, perché proprio ieri il Congresso ha deciso di far partire un'inchiesta parlamentare, ha convocato Comey per ricevere spiegazioni sul perché e sul per come, come mai non c'è stata questa incriminazione quando c'erano dei fatti, c'erano persino delle violazioni del Freedom Information Act, e dunque se ne parlerà nei prossimi giorni. Subito dopo ci sarà la convention repubblicana, dunque potete immaginare gli attacchi che partiranno contro Hillary. Perché? Perché il problema per Hillary è evidente. Parliamo di un candidato che aveva impostato tutta la sua campagna su credibilità, esperienza, decisioni ponderate, buonsenso, tutto il contrario naturalmente di quella che è la percezione, come dire, popolare di quello che invece è Donald Trump, che è un improvvisatore, è un uomo che ignora alcuni aspetti essenziali della politica estera, della politica interna, dell'economia, è un uomo che non ama rispettare le regole e così via, così via. Quindi Hillary si era posizionata in quel contesto di sicurezza. Con me avrete sicurezza. Ecco, quando l'FBI afferma ufficialmente che le azioni della Clinton sono state estremamente imprudenti, quando l'inchiesta conferma che nelle email sono stati inviati attraverso il server privato e non dal Dipartimento di Stato addirittura documenti top secret, cosa che tra l'altro era stata smentita dalla signora Clinton, beh, le cose si complicano. Fino a quando? Ma secondo me questa cosa poi a un certo punto andrà a morire, perché qui ci si aspettava una decisione, incriminazione o no. C'è stata poi una bacchettata forte. Ieri forse sono stato più leggero, ho parlato di parole dure di Comey nei confronti di Hillary, ma è chiaro che in quel momento prevaleva il fatto che la campagna per lei continuava, che non ci sarebbe stato Joe Biden come candidato alternativo alla presidenza e così via, così via. Per cui secondo me quando ci sarà la convention democratica, cioè fra 3 settimane circa, beh, a quel punto le cose dovrebbero rientrare e poi si va avanti, perché questa campagna elettorale procede in degli stadi, quindi quando si chiuderà la stagione delle convention, a quel punto ci sarà una pausa. I due candidati in genere fanno una piccola ritirata strategica per impostare poi la corsa finale e poi si ricomincia a settembre, senza esclusioni di colpi. Ecco, credo che per allora questo problema della Clinton sarà minore, ma i fatti ce lo diranno. La fortuna di Hillary è che Trump non è a sua volta al di sopra di ogni sospetto. Di certo per gli americani non è rassicurante che la scelta fra i due candidati per la Casa Bianca 2016 sia fra un repubblicano che dimostra nei fatti di essere imprudente e una democratica che nega di esserlo e di avere anzi tutta l'esperienza necessaria per guidare il paese, per essere poi smentita addirittura dall'FBI. Ecco, credo che anche questo sviluppo degli ultimi giorni fa parte del movimento più ampio che in tutto il mondo, ma soprattutto in America, sta agitando fino alle sue radici la credibilità stessa del modo in cui funzionano le nostre democrazie. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vi fa più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, devo dire, qui si parla di credibilità, di fiducia, è di questo che stiamo parlando, e di questo che parlano Trump e Hillary Clinton a distanza. E ormai, credo, purtroppo, la credibilità l'hanno persa un po' tutti e due. Vedremo chi riuscirà a recuperarla per primo. Dunque vi propongo di Billy Joel, A Matter of Trust, una questione di fiducia. 1, 2, 1, 2, 3, 4 New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!